Era un periodo che lo stavo appena piazzando, praticamente ero senza antenna, proprio il capo buttato in terra, così. E questo amico mio, tra virgolette amico, comunque, mi ha detto, prova a vedere se esci con la radio. Ho preso e ho accordato il cavo, e dico, dai, non posso parlare, cazzo, ti sento 900, non vedere anche io col chimbo, no, cazzo, 940, 940, senza antenna, fui oggi con l'antenna, un tentuendo. Comunque, voglio dire, ho accordato anche il cavo. Eh sì, perché aveva il 450 con l'accordatore, aveva un accordatore meccanico, capito? Quello può darsi che adesso io non so perché non l'ho mai avuto il 440, però a quanto ho letto aveva un accordatore, era meccanico ed era una cosa allucinante. No, questo del Kenwood del 450 lo stesso è buono, io l'accordatore non lo uso mai, l'accordatore io non uso mai in questa radio, cerco di fare sempre antenne ben tarate a 50 ohm, un SWR a 1, non uso mai accordatore, però l'ICOM però non lo uso perché come tu sai, tu vai nella selezione dell'SVR e ti accorgi quando la radio, quando non hai stazionarie, mentre l'ICOM, il mio, non ha il lettore di SVR, cioè tu anche se fai un'antenna tarata a 1, io per non sapere leggere e scrivere lascio sempre l'accordatore inserito, perché non leggo il ROS, perché non posso leggere il ROS io nell'icona della radio, quindi per non sapere leggere e scrivere o devo viaggiare così, però come ricezione, come anche come preamplificatore d'antenna, cioè detto c'è di base rimulti da sottoterra, lì come una cosa allucinante, e tu l'hai sentito che sembra che ti stia ascoltando la televisione. Io qua quando faccio ascolto sembra che ti stia ascoltando la televisione. Sì, è vero, vabbè, è una radio che è fatta per quello, perché va bene. Sì, mi devo ricordare che avevi di prendere questa cosa, adesso mi è venuta la fissa di mettere questa televisione, però se riesco a trovarla più piccola è meglio. Non è una cosa brutta, non è una fissa brutta, perché vedrai che ti farà piacere anche stare più in radio e utilizzerai anche solo quella, perché ho lo schermo più grande con dai, è bella, bello, non c'è studio. No, vabbè, poi giustamente vedi quello che vedi nella radio, lo vedi più grande, più amplificato, È bellissimo, no? Magari avverrà io la radio così, ma l'avrei subito fatto, subito messo, e hai più anche riesci anche a trovare meglio tutte le voci del menu, perché te le vedi in grande, riesci a capire cosa stai facendo. È un'utilità, cioè una cosa che è molto buona da avere, non è solo un fattore estetico, è solo anche tu prendi, hai uno schermo e leggi i menu, leggi tutte le storie che ti servono. Sì, ah, già va bene. Però no, io ho visto a casa di quello amico mio e in stazione non stava male, ma non stava male anche perché non era una TV, un video enorme, era piccolino perché ci stava, e stava bene anche come l'ha messo, diciamo, era sopra la radio, a un fianco, aveva il posto e insomma, e si vede tutto bene. Però lui ha anche quello che vede dove la frequenza, insomma, come si chiama, dove sono le porca miseria, dove sono le strisce che su e giù, come si chiama? L'analizzatore di spettro. Bravo, è quello lì. L'analizzatore di spettro. Allora Tino, io a quanto ho capito ci sono molte persone che vanno sulla frequenza con le SDR. Mi segui? Per esempio, noi operiamo su 27.105, io metto 27.105 nell'SDR quando c'è propagazione, quello che non sento bene con la radio lo sento bene dall'SDR, quindi anche l'SDR è una cosa buona da avere. Mi segui? Perché ti metti le cuffie e ascolti con l'SDR, quello che, non ti, che ti arriva basso, con l'SDR lo prendi in pieno? Sì, ho capito. Sì, hai ragione, io mi sono anche sentito. Ma cos'è? Cos'è la Roma 1, mi sembra? Dipende da quanto è lo shift della propagazione, da quanto è lunga o corta la propagazione, perché altrimenti io mi sono sentito in quello della Danimarca. Io quando a volte mi ascolto in quello della Danimarca, o a volte se la propagazione è lunga, o altrimenti in quello di Parma. In quello di Parma io mi ascolto se la propagazione è corta. E me l'ha detto, diciamo, quell'amico che sta a 565, perché io non lo sapevo. Ma tu se devi fare, devi controllarti la radio, te la controlli lì. O quando è lunga vai in Danimarca, oppure quando è corta vai a Parma. Io mi occupo, mi sento 9-10, tranquillo. Così è bello. Insomma, starci sopra, fare queste cose qua, queste prove. Dovrò farlo. Io avevo anche DX Chrysler, una cosa del genere, dove praticamente mi diceva ciao, buonanotte, dove mi diceva dove c'era la gente in linea, diciamo, e quindi tu andavi lì nella frequenza, in tutte le frequenze li ascoltavi, insomma. C'ho ancora voi, nell'altro computer però, questo me lo volevo piazzare qua, ma è pesante. Questo computer è proprio leggero, però è bello, bello vero, devi fare dei passaggi, entrare giustamente con una sigla adibita a quella cosa lì, perché sennò non ti fa entrare. Sì. No, ma anche l'SDR è bello avere lo schermo, eh? Per esempio dal tablet prendi il cavetto e vai allo schermo, oppure se c'è, io ho un bel tablet e me lo vedo da lì. È bello. Non c'è, la tecnologia già è bella, però fare radio in maniera classica è ancora, cioè, è bello. Comunque sì, tu quella cosa la devi fare, perché vedrai che avrai molto più piacere di stare in radio, e vedrai che la radio imparerai anche a usarla molto molto meglio, perché quando, una volta che c'è lo schermo, il menu lo vedi per intero. Capisci quello che stai facendo, occhialini, tastini, non tastini, me li prendi, come che sta usando il computer. Anche quello è vero. Sarebbe stato bello avere una scrivania un pochino più grande e fare una cosa del genere, mettere, per dire, come io ho il PC, lo schermo del PC sopra la radio, e avrei voluto mettere quello lì invece, capito? Il PC magari metterlo diversamente, che potrei farlo, prenderlo al muro, mi devi stare sempre a spostare quadri, a fare un'altra. È una cosa che non ci si, cioè lo fai così per avere una, cioè vedete qui quella gente che si mette per dire due, tre televisori grandi curvati verso giù, cioè inclinati verso giù, di quei televisori a curva che sono bellissimi, a 45 gradi, che tu sei in postazione, alzi lo sguardo e li vedi benissimo. Sì, no, già è vero, sono tutte cose, guarda, tutte cose belle, sono tutte cose belle, che poi lo vedi, quando hai una radio che ti permette di fare certe cose, certe opzioni, queste cose qui, non cerchi altro, perché poi sperimenti, fai, già lo schermo, per esempio, ti riempie l'occhio, o sbaglio? No, infatti è quello, tieni più lungo anche perché poi molte volte io mi abbasso a leggere queste cose così piccole che adesso antenna 1, antenna 2, no? Là lo vedi più grande, più bello, vedi, sai già dove la cosa da cercare, butti l'occhio e ci sei, capito? Ecco, per quello, te ne passa la voglia, lasci perdere e non ti metti a fare le cose. A me già mi piacerebbe, a me come radio piacerebbe anche 991, dai, sono radio belle, che però ti spendere 1.300-1.400 euro in una radio non, al momento non ha senso, e noi tra parentesi possiamo ritenerci anche fortunati. Apprezziamo quello che abbiamo e teniamoci bene quello che abbiamo. Comunque fatti questa cosa dello schermo che vedrai come quanto diventa bella la stazione. No, ma io sono già contento così, per carità. Io già quando ho avuto questa qua ho lasciato lì. Se poi riesco a prendere anche un alimentatore della sua linea, ancora meglio, perché tutto fa linea, però lo sto facendo andare con 50 ampere, quindi va bene anche quello, anche se non è un alimentatore adatto a queste radio, però sono 50 ampere. No, io ti ripeto, io se lo trovo me lo faccio in anticipo, intanto il regalo di Natale, io se lo trovo il DSP100 o della Kenwood me lo prendo, non me ne frega, anche domani mattina lo prendo, non mi interessa. Logicamente deve avere un prezzo dai 200 ai 230 euro, perché altrimenti se lo tengo, perché il suo valore è quello lì. Però se lo trovo me lo prendo senza problemi. Quello lì mi piacerebbe, ti trasformo il 450, allora il 450 e l'850 te lo trasformano e la radio diventa di una qualità eccezionale. Se è fatta apposta così. Non l'hai mai visto tu il DSP100 come è fatto? No. Se c'hai internet acceso, guardalo. È una cosa fine come potrebbe essere un DVD, capito? Un po' più grosso di un DVD con tutte le regolazioni, ma la ricezione ti dà un taglio proprio, è presente il QRM, quello sembra che c'è l'antenna staccata, e ti arriva solo il segnale pulito. È assurdo. E la trasmissione te la migliora in una maniera eccezionale. La trasmissione sembra che hai una modulazione spaziale. Cioè, guarda cosa hanno fatto ai tempi. Cos'è? DSP100 si chiama? Sì, Kenwood, DSP100. Aspetta lo scrivo, dai. Vediamo cos'è. Allora, cos'è fino, Sì, fino e nero. Però qua c'è scritto, no, aspetta un attimo, non è questo, DSPK mi dà impressione, se mi dà immagini. Ah, ho capito, sì, l'ho visto. Vediamo quanto costa. Su 250 e dai 200 a 250 euro lo trovi, 230 è il suo prezzo. Hai visto quella cosa lì? Quella lì ti cambia la radio la giorno alla notte. È praticamente un digital segnale professionale, dai, diciamo. Digital segnale, quello lì è per la ricezione e per la trasmissione. Cioè fa paura. Io se lo trovo me lo prendo. E quello fa una bella linea. Se tu puoi metti in vendita il 450 o il DSP100, lo puoi vendere anche se 700 euro il 450. Sì, però non mi dice quanto costa. 250, guarda, anche su Subito ce n'è uno, però non spedisce. Qua addirittura è una copiata con l'850. Sì, infatti veniva copiato all'850 e al 450. E sta vendendo il Kenwood 850 con quello lì 850 euro. Te l'ho detto. Acquista la radio, prende un valore assurdo, perché proprio la cambia, proprio la cambia, è un altro pianeta, è un altro pianeta. Adesso Nicola ti ha detto, ma tu ne hai radio con uno? Ho detto sì, è perché non le vendi. Cosa? Allora, su Wallop sta mettendo cose che non usa più, no, le sta vendendo così, giusto a farsi due soldini. Gli ho detto anche, ha due piste nuove, mai usate, anzi forse l'ho piazzata una volta, ho visto come funzionava e l'ho rimessa subito nella scatola di Super Mario, le piste che si usavano con le macchinette, no? Nuove. E la rimessa l'avevo pagata a 70 euro, ho detto, quindi almeno 35 euro, nuova, 30-40 euro la puoi vendere, poi adesso è il periodo di Natale, magari te la comprano anche. Sì, su subito, ma anche su Market Planings ti mettili. Mettili su Market Planings e gliele fai vendere lì. Sì, insomma, devi fare la fotografia ed insomma. Devo starci sopra anche io, capito? Quello che fare a lui. Deve fare a lui l'idea di giochi, dice fatti le foto, te le fai dare e gliele metti in vendita, può essere che riesce qualcosa per Natale a lui, è tutto buono, tutto riguadagnato. Intanto per quello che la penso io, sopra il mobile la roba non ci fa niente. No, vabbè, l'accendo, infatti ne ho due o tre conservate, ne ho una io, la mia, che è proprio la mia quando ero bambino e funziona ancora. e due le ha ricevute a Natale, però Natale di Fiorentini. Io ho con la pista, la macchinetta è il BMW, BMW prima serie, è la Fiat 131 all'Italia ed è una pista 8, al trasformatore è contro il 450, solo che è un problema a trovare le gomme di quelle macchinette. Ma sono macchinette grandi, come sono? Macchinette grandi sono, sì, macchinette grandi, ora ti posso dire, scala 1, quelle classiche macchinette della Burago, ti ricordi? Quelle macchinette che aprivano gli sportelli, quelle che si usavano, che giocavamo prima, la classica macchinetta, un po' grandetta, e sono, quella è una pista rara, aspetta che qua c'è l'astronave atterrata, aspetta. No, io pensavo alla macchinetta che ti sedevi anche tu dentro e andava, capito? Cioè? Io avevo le macchinette che mi sedevo dentro e pedalavo così. Ah, no, la pista delle macchine, la pista elettrica. Ah, pista. Sì, la pista, con la BMW nero, Mutul, mi sembra, marcata, la Fiat 131 all'Italia, tre porte. Bella. questa che io è la macchinetta di Super Mario Bros, così si chiama. Sì, ma è una pista di 40 anni quella lì, è una pista che ha 40 anni. E poi io ho un'altra passione, a me piacciono molto i treni, le piste dei treni. C'era un signore a Porto Torres che adesso è morto e aveva un capannone dell'elettricista, lui, e aveva un capannone di 300 metri quadri, aveva 50 metri quadri allestita a pista di treno, ma i semafori, giusto per farti capire la pista, il trattore, il locomotore l'aveva pagato nel, era andato un paio di volte, comunque il locomotore costava 1000 euro, ma ma con le gallerie, le case che si illuminavano, cioè sembrava un paesaggio, era fantastica. Era come andava a Lueto, si puniva, così si giocava, le sbarre del treno che si abbassava, le macchinette che passavano, qua, allucinante. Una pizza secondo me valeva 100.000 euro. Lì ci sono soldi, non è che... Soldi, lì ci sono tanti soldi, i binari non i binari in cosa, in alluminio, i binari in alluminio, proprio poi non è che il treno non faceva rumori, cose, no, il treno faceva proprio rumori di rottaia. Il classico treno era il classico treno anni 80, quello tipo ferrovia dello Stato. E quelle lì, e lui aveva i doppi binari, faceva le fermate, ma se mai 100.000 euro, molto di più veniva con la pista di 100.000 euro, cioè era assurdo, era 50 metri quadri di roba rialzata, tutto a pannelli, l'erbetta, le montagne, le case, tutto c'era, tutto, poi la scala della roba, cioè proprio la grandezza della, le dimensioni tra personaggi e treno, erano proprio reali, chissà che fine ha fatto con la pista. Peccato perché se non ecco, vabbè, devi avere il posto, vabbè. Ti può piacere quanto vuoi, ma se non hai il posto, cosa cavolo fai? No, vabbè, se ti devi avere posto, però io da grande andavo di lì e sembravo un bambino guardando io questa roba, ma lo sai quanto era bella. Tutti i lampioni si illuminavano, la stazione, le stazioni, assurda, io andavo ad ammirarmela, quello era una cosa allucinante. Sì, intorno ai 150, 100.000 euro sicuro di roba c'era lì. Parlo solo di meccaniche di pista, senza contare il paesaggio, la roba lì, quella è tutta roba a parte. Le case, assurdo. Mi piace anche molto il modellismo delle macchinette vecchie, però queste nuove no, le 126, le 127, le Alfette, quelle robe lì. Mio zio ha una vetrina grande a casa sua, fatta da mio padre, ce le ha quasi tutte. C'è mio cugino che, vabbè, non mi ricordo dove, in che zona abita, perché sono un po' che non... sono qualche anno che non lo vedo, giusto su Facebook così, e ha postato una fotografia della collezione che ha di 500, le 500 ma ne avrà un centinaio. Sì. Belle, insomma, e poi quella roba lì prendeva, non sai il valore che ha quella roba lì. C'è gente che colleziona le vespette piccole, tutte le Harley Davidson, chi collezionista di aerei, modelli di aerei. Per esempio, il fratello di mia madre, mio zio, colleziona camion, lui camion e mezzi d'opera, ha tutti i mezzi d'opera, a partire dalla 682 ai giorni d'oggi. Proprio gli arrivano, li compra da internet, le gru a tralice, le gru a braccio tenuto, scopi con i muletti, il garage con le mensole, tutto pieno di questa roba qua, li pulisce, ai 190, i pullman, tutto. Tranne le macchinette, lui colleziona, sì, le gru ne avrà una ventina, ma gru belle in ferro, cioè non in plastica, gru in ferro con vericelli che girano, assurde, però ha molti mezzi d'opera. Betoniere, scavatori, terne, trattori Fiat Itachi, Fiat Agri, ha tutta la serie del Fiat Agri. Bello. Beh, però ti ripeto, sono delle collezioni che uno si fa, ma dico davvero, ho una stanza abbastanza grande, perché se dipende cosa collezioni, oppure un garage come hai detto tu, solo adibito a quelle cose lì. Ma un garage che sia pulito pure, perché pure devi pulire, pure devi tutte pulire, devi spolverare, non è che ti metti a fare lavori per esempio di falegnameria o ti metti a verniciare di lì dentro, cioè devi prendere, vabbè, lui pian piano si sta facendo le bacche in ferro, per conservarle, ma sono anche quelle da vedere, sono bellissime. Ci sono tante passioni, c'è per esempio, cosa ne so, chi colleziona biciclettine, è cosa bella da avere, e quella lì, e quelle col tempo acquistano un valore, ripeto. Sì, è vero. Io mi stavo mettendo in testa da ragazzo a farmi una collezione delle modellino delle Ferrari, questa roba qua, no? Oppure BMW, tutte queste macchine, ma ne avrò avuto una trentina, poi non sapevo dove metterle, e allora mano a mano, quando c'era qualche occasione da darle, tipo Natale, no? Facevo questi regali così, e piano piano me le ho tolte fuori, perché poi mi prendevano troppo spazio, come hai detto tu, abitavo a Te Dolce, in casa di mamma toccava sempre spolverarle, perché ce l'avevo a vista, capito? Un travaglio. Alla fine non facevo altro che comprare e lasciare nella scatola, così pulivi solo la scatola, e la macchina rimaneva pulita. Sì, perché poi è vero, poi alla fine neanche ci giocavi. No, assolutamente. Ero lì, ma ero già grande quando mi è venuta questa passione, insomma, grande, 14-15 anni, capito? Sì, anche perché, vabbè, da più piccolo. Prima non è che andavi a comprare macchinette d'epoca, quelle macchine c'erano, esistevano, cioè ai tempi tui, quando andavi a comprare una macchinetta moderna, trovavi una 1, trovavi la Panda 30, trovavi la 75, la macchina dei carabinieri, trovavi quelle macchine lì. Adesso trovi le Audi, trovi, o sbaglio? Sì, vabbè, c'era il 320, il BMW, c'era l'M3, l'M4, c'erano le Volvo, sono queste macchine qua, le macchine dei nostri tempi, dai. Sì, il Volvo, il 740, che quello quadrato, feo, mia macchina. È vero, vabbè. A me piacciono quelle cose, sì, a me piacciono quelle cose così. Riprendo subito, sì. Ehi, fai, avanti. Che? E beh, Antonè, però prova a togliere questo bip e a parlare bene. Aspetta. Ma tu ogni volta vieni, sei sempre pieno da brutto, gabù. Tolto il bip, non c'è problema. Cosa stai utilizzando? Il cioccolato sto usando. Ma è troppa amplificazione, i medio alti, troppo alti. Aspetta. Troppo rumore di sottofondo. Fatelo regolare, cazzo, lo sai che non sono nelle picche dell'M, no? Guarda un po' adesso. Ah, è vero, siamo in FM. Ebbene, FM ti dovrebbe uscire la modulazione un pochino più pulita, Ma meglio adesso, o vuoi che ti faccio un ordine vicino a casa mia? Che panino vuoi? Panino. Tu il processore. Ma sei matto, sei cazzo. Come hai tolto il processore di vita mia? Ma tu sei esaurito, sì. Te faccio... aspetta. Abbasso il microfono, guarda un po'. Se tu gli processore, magari arrivi anche meglio. Lascia perdere, non tolgo il processore, già lo sai. Lascialo così, cosa vuoi dire? Vabbè, ti faccio fare l'ordine di prendere la carta di nuovo, dai. Vediamo un pochettino. Appena parlano lo sentirai. Poi io gli domando tu. Thank you. attaccato, anzi la fottinuta, se vengono brutti i bummi. Di tutto a casa ce l'ho. Sì, ma non me ne frega niente, non ho... stai facendo balame e basta, non va bene. Cazzo diavolo. Di lusso è comunque, questo mi ha aperto un locale di fronte a casa e una di notte ti bevi una cosa, paghi un bel eccetera eccetera. Ma di fronte o sotto casa tua? Di fronte dove c'era scarpa prima, lì è. Ho capito, perché pensavo sotto casa tua era già aperto quello lì. No, sta aperto Boboreto, Bolaredo, non Boboreto. Ma comunque sì, adesso ho aperto l'altro dove c'è la scarpa, quindi hai capito. Ascolta a me, come si chiama lui di cognome? Chi? Vanni? Quello Cicciottello, come si chiama? Giuseppe si chiama. Cicciottello, ma di che stai parlando? Di cosa? Di Antonello oppure di Giuseppe Leoncino? Ma cosa c'entra Leoncino? Quello del bar, come si chiama? Il padrone del bar. Quello Andrea. Cogliamo il numero di coda da verità, Non è Bocchini, no? Non lo so, la verità non te lo so dire, non lo so. Boh, vabbè. Andare, Gabi, sì, io che sto aspettando Gabino che devo chiudere. Sì, sono entrato adesso, abbiamo me. Vabbè, la buona anima a casa. Cazzo la buona anima, si sono qui sempre in radio, siamo sempre in radio, noi la notte ci siamo sempre, noi la notte ci siamo sempre, sei tu che sei sbucato da sotto la mattonella. Vabbè, lo sai che io ho problemi a casa, quindi non è che posso andare più di tanto, la verità, già lo sai, quindi a un certo punto già lo so che quindi a un certo punto. Antonio, ti piace questo microfono? Come ti guarda, ti va bene, ti piace? No, fa schifo, sembra che stai uscendo cazzo da un coso. Un orco, come sempre. Ma vai, un bel di tonalità bassa, c'è, vero Antonio? Esatto, sì. Ehi, perché è dura, è una modulazione molto, molto compressa. Oh, scusate, dai, che io mi devo preparare la roba per domani e quindi devo mollare. Antonio, fate sentire più spesso, dai. Ciao Gabi, ci sentiamo più tardi magari, o domani, vediamo. Sì, va bene. E anche io adesso prendo e chiudo, perché dai, siamo da presto. Siamo da presto e chiudo anche io. Mi faccio un paio di passaggi con Antonello e poi chiudo le trasmissioni. Ciao ti, ma sentiamo domani. Buona giornata e buonanotte. Ciao. Ehi, ciao, buonanotte. Ciao Antonello, saluta in casa. Ehi, ciao ti, ci sentiamo. Saluto ribelli la patria mia, non c'è problema. Anche la Simona. Vabbè, a parte che non è che stia molto bene, quindi a un certo punto sono che ti posso spaventato, capito? Perché adesso sta fumando di nuovo, quindi a un certo punto come ti posso dire, non posso stare molto tranquillo, la verità, quindi è per quello che non sto più entrando come prima. Ho capito, vabbè, devi fare la brava. Ciao, buonanotte. Ria, ciao, buonanotte, alle prossime. Ma sono capito perché cazzo mi sta facendo questo cazzo di effetto di 140, boh. Che cazzo sai se sta tappato? Non ho capito da solo. Guarda la potenza. Adesso più chiara, Antonio, guarda, mi sono messo un po' più distante. Sì, sì, va bene, va bene. Non sei tu, no, è l'antenna, c'è un'antenna sopra che sta dando dei problemi, non lo so. Oscilla dalla 70, tu? Non lo so. Come fa vento? Aumenta, mi diminuisce, boh, che cazzo ne so. Stazionari 1 e 3, non lo so, ci vediamo se aumentano o mi diminuiscono. Ma cos'è la Mantova? No, non è la Mantova, c'ho la energia, la Mantova l'ho regalata, l'ho smontata perché cazzo mi ha bruciato due televisori, cazzo, eccetera eccetera, ma ce la faccio, cazzo, no, l'ho regalata a un amico di Lateronce, e ho visto che sciolta era, sai come l'ha sciolta? E già sotto il monitor dove c'era lo stampato del televisore che hai lasciato Simone acceso, c'era un buco di 15 centimetri di diametro, sembrava fatta con una saldatrice. Ma quello è fulmine però, allora. Esatto, sì, infatti ha preso il fulmine in pieno dalla bobina. Antonio, però anche tu l'antenna devi metterla bene a massa, mi. Cioè, quell'antenna voleva messa a massa, Antonio. Caspita, un cavo di terra anche all'antica lo devi fare. Se sono più di 30 anni che non mi è mai successo niente, mai, in vita mia. Questa volta l'ho conosciuto, guarda, quello che mi ha fatto, cazzo, mi ha spaccato due televisori. E in più anche la Mantova ma disintegrato. La scioglie, ma non te l'ha spezzata. No, non me l'ha spezzata, la verità. Perché quando gli ho dato da Nilo, l'antenna era a posto, tranquilla. Però la bobina che c'era all'interno delle incassata dove c'era la plastica sopra, quella era ma ti posso dire, non male, però sotto la bobina era completamente, sembrava saldata, sembrava sì, gli è entrato proprio il fulmine, ma lo fa, è un casino. Cosa vuoi ti dica, purtroppo è così. Antonio, dai, anche io chiudo perché sono da stasera presto in radio e sono anche un po' stanco. Vabbè, dai, ci sentiamo alle prossime, stammi bene, buon tutto, buon lavoro, cosa ti posso dare? Anzi dire, no? Dare a un certo punto. Io, vabbè, mi sto in pratica dedicando piccato per la questione di tra me e Simona e cose del genere, e quindi a un certo punto sto lasciando per il baracchino. Però adesso appena sistemo un po' le cose, il sistema nuovo tutto, mi sono venduto anche un baracchino, mi sono venduto, figurati tu, l'Iconex 4000, mi è piaciuto, però l'ho dovuto vendere a un certo punto, quindi adesso vediamo un po', forse fra un mese, due mesi me lo ricompro quello che è, perché mi sono pentito, l'avevo dato, però a quel punto lì ero incasinato, o una scelta o l'altra, il discorso è quello. Va bene Antonio, dai, già si rimette tutto a posto, piano piano. Antonio, non disperare, già te lo ricompri il baracchino, ok? Dai, buona giornata, buonanotte anche a te, buona giornata per domani, statene tranquillo. Quando vuoi la notte, noi già siamo sempre qua in radio. Siamo sempre qua su 12 in FM, ok? Ciao Antonio, buonanotte a te, Correa Familiare, tutta la Prussia. Ciao ciao. D'accordo, ok, alle prossime, stiamo bene, buonanotte a tutti e due. Poi vabbè, con lui ci sentiamo spesso, quindi continuo, parecchie volte, al limite, che entra. Lo sento qualche volta che domanda sul 12, quello che è, ma comunque sia... su questo qua ho sentito più nessuno, neanche un cane, è sano, quindi va bene, e ci sentiamo alle prossime. Dai, se mi hai detto che siete tutti i giorni qui, entro tutti i giorni qui, non c'è problema.